Amen. Stamattina devo stare attento perché... Giusto per sicurezza. Perché, sì, perché abbiamo realizzato questo video? Abbiamo realizzato questo video perché abbiamo voluto rispondere a una domanda. Perché battezzare in acqua attraverso immersione persone adulte? Fondamentalmente questo è il motivo per il quale noi abbiamo realizzato questo video. E se tu sei qui per la prima volta, probabilmente questa non è l'unica domanda che ti stai facendo. Probabilmente sei qui e ti stai facendo un sacco di domande. Perché cantiamo nella maniera con la quale cantiamo? Perché ci sono le luci e festeggiamo e agiamo in una maniera così festosa? Perché gli applausi? Perché le gride? Perché le preghiere spontanee, perché chiamiamo qualcuno pastore, perché c'è una squadra di ministri come chiesa, perché abbiamo parlato di raccogliere offerte e nel menzionare proprio i soldi che avremmo raccolto abbiamo parlato e citato anche le decime, perché come chiesa ci definiamo tali non per l'edificio nel quale ci troviamo, ma per l'adunanza di credenti che siamo. Perché tutto questo? Io credo che sia importante che ciascuno di noi si faccia queste domande. Quindi non solo per chi è qui per la prima volta, ma credo che per ogni credente, dalla prima fila all'ultima fila, le persone che stanno in piedi, è fondamentale che noi regolarmente ci chiediamo perché facciamo quello che facciamo, come lo facciamo. Perché sei qui? Perché partecipi a tutto questo? E io credo che è importante che noi ci diamo la giusta risposta. E la giusta risposta è non perché seguiamo una tradizione. Fatemi mettere questo in chiaro. Per tutti noi, come Chiesa Pieno Vangelo, noi non facciamo le cose perché tramandate, perché dobbiamo perpetuare nel tempo qualcosa che ci è stato tramandato da chi è venuto prima di noi. Noi non facciamo le cose perché siamo abitudinari. E questo è un rischio. Probabilmente tu sei seduto nel posto in cui sei seduto perché sei abituato a sederti dove sei seduto ora. Siamo tendenzialmente tradizionalisti, siamo tendenzialmente abituati a far scattare quella che è la molla di un'abitudine. Vedete Stefano e Angela, se non li trovate sul lato destro, li trovate sul lato sinistro, ma stanno sempre all'estremità della fila. Non lo so perché, forse temono che se ci dovesse essere un incendio devono liberarsi quanto prima dalla fila nella quale si trovano, no? Ora, questi sono dettagli che non hanno nessuna rilevanza, anzi è pure buono che noi abbiamo un posto dove ci sentiamo tranquilli. Ma perché facciamo quello che facciamo? È la mia domanda. Come pastore, no? Come responsabile nel guidare questa chiesa, io devo chiedermi continuamente perché facciamo quello che facciamo, come lo facciamo. Può essere perché ci piace farlo in questa maniera? Sarebbe una risposta ancora peggiore della prima. Se facciamo le cose per tradizione, è un conto, perché delle tradizioni possono essere eventualmente buone, se tramandate dalle giuste persone, se rispecchiano la volontà di Dio. Ma se facciamo le cose che facciamo semplicemente perché ci piace farle come le facciamo, stiamo sbagliando tutto, perché non necessariamente ciò che ci piace è la cosa migliore per noi. Quindi perché facciamo quello che facciamo? Perché alziamo le mani? Perché cantiamo? Perché ci sono delle luci colorate? Perché siamo festosi? Perché celebriamo nella maniera con la quale celebriamo? Perché andremo ad immergere le persone che si battezzeranno questa mattina? Beh, la risposta in realtà è molto semplice e diretta. Noi facciamo quello che facciamo perché noi vogliamo seguire la Bibbia. Noi, come Chiesa, abbiamo un fondamento principale, fondamentale, irrevocabile, incondizionato nel tempo, nella cultura, nei secoli che passano. Per noi il fondamento principale è questo libro che ho in mano. La Bibbia è il motivo per il quale noi facciamo quello che facciamo così come lo facciamo, e ogni cosa che noi facciamo in questo luogo e ogni cosa che noi facciamo come Chiesa deve, non può, deve necessariamente avere una risposta biblica, perché la Bibbia è il nostro fondamento. Noi crediamo nella Bibbia, noi siamo una Chiesa che crede nella Bibbia. Noi crediamo in ogni singola parola scritta nella Bibbia. E crediamo che questo è l'unico vero fondamento che può rendere questa casa, la Chiesa di Dio, una casa stabile, una casa che vive ed eredita le promesse di Dio e una casa che è secondo il cuore e la volontà di Dio. Fin quando noi seguiremo la Bibbia, siamo a posto, fratelli e sorelle. Nel momento in cui non seguiamo più la Bibbia e seguiamo qualche uomo, qualche tradizione o qualcosa che piace a noi, stiamo allontanandoci pericolosamente da quello che è il fondamento di ogni benedizione e di ogni verità, la parola di Dio, la Bibbia. Questo non è vero come Chiesa solamente, è vero anche per la tua vita. Chi stai seguendo? Perché fai quello che fai, come lo fai? È per il piacere di farlo? È per il gusto personale? È perché segui la tradizione delle masse? Perché ti piace seguire la maggioranza delle persone? Oppure perché ti piace essere, perché questo è diciamo il contrasto, no? Se non seguiamo la massa vogliamo distinguerci ed essere una minoranza. Questo non è la ragione per la quale noi facciamo la Chiesa come facciamo. Non vogliamo essere una minoranza che si ribella. Non vogliamo essere quelli speciali, no? Quelli unici. Perché vivi la vita che stai vivendo? E qual è la vita che stai vivendo? La migliore vita che tu puoi vivere è quella che il tuo Creatore ha prestabilito per te. La migliore vita che tu puoi vivere è una vita che rispecchia e segue la Bibbia al 100%. È proprio perché è così importante per noi la Bibbia che ogni domenica e in ogni incontro che noi facciamo, noi leggiamo la Bibbia, noi meditiamo la Bibbia, noi studiamo la Bibbia. E dovremmo correggerci nel momento in cui non dovessimo più fare questo. Ma fatemi andare avanti nel messaggio. Voglio leggere appunto la Bibbia, perché è quello che facciamo ogni volta, e perché io di mio non ho niente da trasmettervi di buono, se non fosse qualcosa che attingo dalla parola di Dio, se non fosse la Bibbia stessa che vi trasmetto. Quindi questa mattina vogliamo leggere da 2 Timoteo 3,16 questo semplice verso che ci fa capire perché la Bibbia è così importante e perché dovrebbe essere il fondamento della nostra Chiesa, della nostra vita e della decisione di questi tre cari che oggi si battezzano. Ogni scrittura, dice in 2 Timoteo 3,16, è ispirata da Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ogni scrittura, tutta la scrittura, tutta la parola, da Genesi all'Apocalisse, ogni parola, la scrittura, questo libro che io ho in mano è ispirata da Dio. Ora, quando dico è ispirata da Dio, sto leggendo quella che è una traduzione, logicamente, dall'originale della Bibbia, e sappiamo che l'originale della Bibbia è prevalentemente scritta in ebraico e in greco. In questo caso, queste parole, divinamente ispirata da Dio, o è ispirata da Dio, è una singola parola greca, molto unica. E la parola greca è teopneustos. Se lo dici veloce, non se ne accorge nessuno che non lo sa il greco. Quindi teopneustos. Ripetete con me, teopneustos. Teopneustos, esatto, quello lì. È una parola articolata, in realtà è unica, non si trova in nessun'altra parte della Bibbia, teopneustos, e non si trova in nessun'altra parte della letteratura greca. Quindi è una parola che è stata specificatamente coniata, fatemi dire così, per esprimere questa frase, queste paroline che sono state tradotte alla meno peggio dai traduttori italiani con ispirata da Dio. Sapete cosa significa? Significa che la Bibbia, la parola di Dio, è stata letteralmente respirata da Dio. soffiata da Dio negli autori che hanno scritto la Bibbia. Questo termine non sta a significare che gli autori sono stati ispirati come magari un pittore può essere stato ispirato da un bel panorama, no? Dice, ah, oh, che bel panorama, fammi fare una pittura e che non è rappresentazione della realtà di quello che vede. O come uno scrittore può scrivere un brano musicale ispirato da una storia d'amore. Non è che gli autori sono stati ispirati in questo senso da Dio. Gli autori sono stati hanno letteralmente vissuto il soffio divino per scrivere quello che hanno scritto sotto la guida di Dio. Quindi la Bibbia non è altro che la parola di Dio stesso. È per questo che noi seguiamo la Bibbia, perché la Bibbia è parola di Dio. Quando tu leggi la Bibbia, stai ascoltando la voce di Dio. Quando tu leggi la Bibbia, stai ascoltando letteralmente Dio parlare. Quando tu memorizzi la Bibbia, tu fai tua la potenza e l'autorità di Dio. Quando tu memorizzi la Bibbia, fai quello che Gesù ha fatto quando si è trovato tentato dal diavolo, che ha citato a memoria dei versi biblici. Perché lo ha fatto? Perché ha assimilato, ha memorizzato, perché sapeva che in quello c'era potenza per contrastare il nemico. Quando tu memorizzi, e dobbiamo memorizzare la parola di Dio, perché così ci appropriamo della potenza e dell'autorità di Dio. Quando agisci secondo la volontà di Dio, secondo la Bibbia, vivi e sperimenti Dio. Fatemelo dire di nuovo, quando agisci secondo la Bibbia, tu vivi e sperimenti Dio. Quello che questi tre fratelli, queste tre persone speciali stanno facendo questa mattina è mettere in pratica la parola di Dio. Stanno vivendo quello che la parola di Dio dice. Quando tu dai la decima e le offerte, tu fai quello che la parola di Dio dice. Quando tu preghi e preghi come Gesù ha insegnato, tu fai quello che la parola di Dio dice. Quando tu alzi le mani e lodi a Dio a squarciagola, a prescindere dalle tue circostanze, tu fai quello che la parola di Dio dice. E quando fai quello che la parola di Dio dice, tu vivi e sperimenti nella tua vita Dio. Vedete con me come va avanti il verso, lo riproiettiamo, no? 2 Timoteo 3,16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, abbiamo capito che cosa significa ispirata da Dio. La Bibbia è Dio, è la parola vivente di Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Io amo leggere la parola di Dio perché posso percepire qual è il cuore di Dio per me. E quando noi leggiamo questo verso, ci dobbiamo rendere conto che il cuore di Dio, il suo sentimento per noi, è che noi possiamo essere completi, ben preparati, educati alla giustizia, preparati per vivere delle opere buone, per sperimentare delle opere buone, per fare delle opere buone. Leggete con me il cuore di Dio. Dio vuole il meglio per la tua vita. Il contrario di tutto questo è rimanere ineducati alla giustizia, delle persone che sono lasciate a sé ad ogni vento di dottrina, ad ogni vento di filosofia, ad ogni vento di pensiero, che non è la giusta vita da vivere, che è quella che Dio ha in mente per te, e quindi tu poi sperimenti ogni maledizione che c'è nel vivere una vita lontano da Dio, sei ineducato, sei incompleto. E le persone, tutte attorno a noi, tutti noi ci sentiamo incompleti, senza Dio siamo incompleti. E la nostra vita può ridursi in un continuo inseguimento di cose che ci danno l'illusione di poterci completare, ma non ci completano mai. non hai una macchina nuova, è la macchina nuova che ti completerà. Non hai un lavoro, quando riceverai il lavoro sarai completo. Non hai un lavoro, quando farai carriera sarai completo. Quando guadagnerai abbastanza soldi sarai completo. Quando avrai una famiglia sarai completo. Quando avrai una pensione sarai completo. Quando è un rincorrere. È un cercare di riempire un vuoto, perché tutti noi ci rendiamo ben conto che siamo incompleti. E la parola di Dio dice: vuoi essere completo? È Dio che ti completa. È la sua parola che ti completa oggi. Dio non vuole che tu sia ineducato, Dio non vuole che tu sia incompleto, Dio non vuole che tu sia impreparato. Lui vuole prepararti a ogni opera buona che Lui ha in mente per te. Lui vuole che tu sia preparato per vivere, fatemelo dire in un'altra maniera, un destino di vita soddisfacente. Io sono grato a Dio per la vita che vivo oggi, perché so che sto facendo le opere che Lui ha preparato per me, e Lui mi ha preparato a queste opere. Come lo ha fatto? Attraverso la Bibbia. Se non fosse per la Bibbia, io non avrei mai potuto vivere la vita che oggi vivo. Anzi, se dovessi pensare alla mia vita di oggi, proprio l'altro giorno ci pensavo, sarebbe rovinosa, sarebbe così triste la mia vita senza Dio e senza la sua parola. Però ringrazio quel giorno in cui i miei genitori mi hanno regalato la prima Bibbia. E io invito tutti i genitori qui presenti, regala una Bibbia ai tuoi figli, il regalo più importante che tu possa fare. Ringrazio quel giorno che ho cominciato a leggerla e a scoprire tante verità. E continuo ancora oggi a scoprirne tante, perché la Bibbia è il fondamento della mia vita, e la mia preghiera è che possa essere il fondamento della tua vita, affinché tu possa vivere quelle buone opere, quel buon destino di vita, quel nuovo giorno che Dio ha preparato per te, nel quale sperimenti le sue benedizioni attraverso la sua parola. Io voglio concludere con un altro verso, l'ultimo verso. E attingiamo direttamente dalle parole di Gesù. E comprendiamo, adesso che leggiamo questo verso, quanto per Gesù è importante la Bibbia. Quanto per Gesù è importante che tu segui la Bibbia, che tu leggi la Bibbia, che tu mediti sulla Bibbia e che tu vivi e metti in pratica la Bibbia. Leggiamolo insieme. È un verso che conosciamo tutti molto bene. Giovanni 8, versetto 31. Dice: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui. Lui si trovava davanti a una folla, forse molto più numerosa di quella che io ho davanti questa mattina. E c'erano persone che già credevano in Lui e c'erano persone che non credevano in Lui. E ci furono fra quelle persone che non credevano ancora in Lui alcuni che, sentendo la voce, l'insegnamento di Gesù, cominciarono a credere. E a queste persone, a te che stai credendo o a te che stai cominciando a credere in Gesù, Lui rivolge queste stesse parole e disse: se perseverate, se continuate, se insistete, se con costanza andate avanti nel meditare, nel studiare, nel vivere la mia parola, siete veramente miei discepoli. Siete veramente miei discepoli. Il motivo per il quale noi facciamo quello che facciamo è perché noi vogliamo essere veri discepoli di Gesù. Non a chiacchiera. Non perché la tradizione ce lo impone. Non perché siamo nati e cresciuti in una chiesa o in un contesto religioso o fra persone che fanno questo e quindi noi le seguiamo come tante pecore, capre che seguono la massa. Noi facciamo quello che facciamo perché vogliamo essere veri discepoli di Cristo Gesù. Io prego che questa possa essere il tuo impegno, il tuo desiderio a partire da questa mattina, di dire: io non voglio seguire una religione, io non voglio seguire una filosofia, Io non voglio seguire degli uomini, io voglio seguire Gesù, l'autore di vita, colui che è capace di fare miracoli, colui che è capace di trasformare la mia vita. Se vuoi fare questo, non sarà una preghiera a trasformarti, non sarà un incontro come questo a trasformarti, sarà la sua parola che tu vivi con costanza. Ed è per questo che io ti invito già ora a tornare stasera, all'incontro di questa sera. Andremo a studiare di nuovo la parola di Dio. E poi domenica prossima, di nuovo alle 10:30 qui o alle 19:00, per studiare insieme di nuovo la parola di Dio. E poi così per il prossimo mese, e per il prossimo anno, e Dio volendo per i prossimi 100 anni e fin quando Lui non torna, che possa esistere a Modugno una chiesa pieno Vangelo che persiste nel seguire la parola di Gesù Cristo e vive ed è vero discepolo di Gesù. Vedete cosa aggiunge Gesù? Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Non è una bellissima promessa quella che Gesù fa? L'obiettivo della parola di Dio, l'obiettivo della Bibbia è farci conoscere la verità. Siamo accerchiati da bugie, viviamo dentro di noi delle bugie, continuamente sentiamo delle bugie, crediamo nelle bugie, facciamo tante scelte quotidianamente perché stiamo seguendo delle bugie che ci sono state inculcate. E Gesù è qui per dirti: sarai libero. Puoi essere libero da questo comune andazzo, da questa terra che è fallita in sé, che è incompleta in sé, se segui me, se perseveri nella mia parola, perché la mia parola ti farà conoscere la verità. Ed è Gesù in Giovanni 14:6 che dice: io sono la via, io sono la verità e io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E quindi la Bibbia ci porta alla conoscenza della verità, che è una persona. E questa persona è Cristo Gesù. E tu puoi conoscere Gesù solamente, unicamente, esclusivamente, attingendo dalla Bibbia. Non posso spiegarti io perfettamente chi è Gesù. Non posso insegnarti io come seguire perfettamente Gesù, ma tu puoi sperimentare, seguire, conoscere veramente chi è Gesù attraverso quel libro che forse per troppo tempo hai ignorato. Chiesa, io faccio appello a noi che siamo credenti e che sappiamo che è importante la Bibbia, riprendiamola. Ci sono alcuni in mezzo a noi che hanno l'ottima abitudine ogni giorno di svegliarsi e leggere la Bibbia e studiarla e meditarla. Quando hai smesso di farlo? Quando ti sei imbattuto in un verso che avevi già letto e che avevi già conosciuto o di cui avevi già sentito una predica? Riprendi quella Bibbia nelle tue mani. Riprendi a leggere, continua a leggere dalla parola di Dio. Abbiamo tanti mezzi per poter leggere la parola di Dio. Ora abbiamo pure le applicazioni sui cellulari. Nelle applicazioni dei cellulari c'è un piano quotidiano che noi possiamo seguire. Fai tutto il necessario. Io ricordo una volta proprio con Antonio, ci mettemmo d'accordo e dicemmo: non siamo disciplinati abbastanza nel leggere, nel cercare Dio ogni giorno. Allora aiutiamoci. Facciamo in modo che ogni mattina ci mandiamo un messaggio, ci facciamo uno squillo, ci chiamiamo e ci sentiamo. E io chiedo a te, hai letto la Bibbia e tu lo chiedi a me. E in questa maniera ci assicuriamo di leggerla insieme. Ed erano tante le volte nelle quali lui mi ha chiamato e aveva letto la Bibbia, io non l'avevo ancora fatto. E se non fosse stato per quella chiamata, non avrei letto la Bibbia. Fai tutto il necessario per vivere una vita disciplinata nel leggere, nel meditare, nello studiare quello che è il fondamento della tua vita e la fonte di ogni benedizione per te. Sei qui e non hai mai letto la Bibbia e non hai mai conosciuto Gesù attraverso quelle che sono le sue dirette parole scritte nere su bianco. Noi questa mattina vogliamo regalarti una Bibbia. Siamo qui come Chiesa che raccogliamo i soldi anche per questo, perché vogliamo assicurarci che tu possa avere questo libro meraviglioso e che tu possa cominciarlo a sfogliare, che tu possa cominciare a scoprire da te stesso, nella tua cameretta, quel Gesù che vuole che tu viva una vita completa, ben preparata, educata alla giustizia e nella libertà. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. E io vorrei pregare per quanti, sono convinto, questa mattina hanno preso un impegno e hanno detto a loro stessi, ascoltando questo messaggio: io voglio impegnarmi ad attingere dalla parola di Dio. Forse non la comprenderò sempre, forse non sarà sempre facile, ma voglio che la mia vita sia radicata e fondata sulla parola. E questo vale per ogni credente e vale anche per ogni persona che ancora non ha accettato Gesù nella sua vita. Io voglio pregare per voi affinché Dio possa farvi vivere la vita piena attraverso la sua parola. Vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo. Gesù, noi ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo di poter attingere direttamente dalla voce tua. Noi ti ringraziamo per il privilegio che tu ci dai di poter leggere una Bibbia in italiano, nella nostra lingua, e comprendere quello che tu hai insegnato 2000 anni fa, insegnamenti di vita e di verità. E io voglio pregarti, Padre, per tutta la nostra Chiesa, che possiamo essere una Chiesa che è fondata e radicata sulla tua parola. Voglio pregarti per ogni persona che da tempo, forse da giorni, forse da mesi, forse da anni, non legge più la tua Bibbia, la tua parola. Io prego che a partire da questa mattina ci possa essere un impegno rinnovato in ciascuno di noi. Non per obbligo, non per legge, non perché dobbiamo, ma perché vogliamo. Vogliamo conoscerti di più, vogliamo vivere quella vita piena che tu hai per noi, vogliamo comprendere la tua volontà per le nostre vite e quali sono i buoni propositi, le buone opere che tu hai preparato per noi affinché noi le possiamo compiere. Io voglio pregarti anche per quanti in mezzo a noi questa mattina ancora non hanno aperto il loro cuore a riceverti, Gesù, e non ti conoscono per quello che tu sei, perché non hanno mai letto dalla Bibbia. Io prego che a partire da questa mattina loro possano aprire il loro cuore e conoscerti di più e cominciare a vivere una relazione con te, non una religione, non una nuova chiesa, non un nuovo percorso fatto e guidato da uomini, ma un percorso guidato da te attraverso la tua parola. Grazie Gesù. Amen. Amen. Amen.